quello dove sono nato, quello in cui tornando a casa vieni sparato. Dimmi che paese è, dove non è libertà, dove giorno dopo giorno viviamo a metà. Tanto amore, basta dargli solo un...